E benvenuti alla 17ª puntata di Cialtroni nello spazio, in studio Francesco, Alessandro Marco. E Marco. Lo stavo Ciao. Presentando io, però va bene, si presentano anche loro con la loro voce. Siamo dotati di voce. Allora Marco, ci spieghi che cos'è Cialtroni nello spazio? Allora, Cialtroni nello spazio è una trasmissione di... Non ti vedo preparato. Oddio, ci risiamo. Domanda a bruciapelo. Allora... Cosa ci piace parlare a Cialtroni nello spazio? Fondamentalmente di informatica, ci piace dare un po' di informazioni sul... Guarda che il microfono è lì, sì, devi parlarci dentro. La risposta in giro per la stanza. E parlando di informatica, parliamo di musica libera, parliamo di tecnologie libere, parliamo delle major, ovvero sia delle grandi case di distribuzione informatica, musicale, cinematografica, contro le persone, contro i cittadini. Parliamo di leggi che appunto favoriscono sempre... La prossima volta la prepareremo meglio a questa risposta. Intanto, visto che parliamo di musica libera, Alessandro, cosa ci proponi oggi questo pomeriggio? Allora, questo pomeriggio c'è un CD proposto da un'etichetta indipendente tedesca che si chiama Pharmacom Records, il sito è www.pharmacom-rec.de. Sono sostanzialmente tre DJ che si sono messi insieme, hanno raccolto un po' del loro materiale, hanno lavorato insieme, e questo è uno dei CD che è possibile scaricare dal sito, che si chiama Flash. L'hanno prodotto con la sigla The Incredible KNO. E dunque, in realtà la base che stiamo ascoltando è Nike Noise, che è sempre dello stesso gruppo, che è una base, sono basi più che altro techno, abbastanza pesanti, hardcore, mentre quello che andremo ad ascoltare è appunto The Incredible KNO, che è un altro sempre sull'elettronica, però un po' più ascoltabile come singolo. Va bene, scaletta della puntata di oggi, un po' di news come al solito, poi parleremo di EFF, che è Marco? L'Electronic Frontier Foundation è una organizzazione americana di persone che cercano appunto di difendere i diritti dei cittadini, di difendere la libertà nel mondo digitale. E poi di un programma player per ascoltare musica, un programma open source. Zinf si chiama, ed è un programma multipiattaforma, quindi va sia su Windows che su Linux. Partiamo subito con un pezzo, appunto, da Incredible KNO. O Kino, non so, non so esattamente. KNO, ma sono tedeschi, dubito che sia KNO. KNO. Va bene. Vediamo che anche la canzone non era pronta. Per allora forza, è tutto sullo stesso CD, per cui è abbastanza difficile. Comunque, questo è Marco Live. Baby. Fine, boom, jack, pezzo un po' elettronico, va bene. Beh, iniziamo, con... iniziamo con le news. Allora, che cosa parliamo oggi? Un po' di novità. Allora, oggi andiamo a parlare di un paio di news che sono comparse sul sito Punto Informatico. Allora, innanzitutto l'indagine che è stata avviata nei confronti di alcuni hacker che hanno sbloccato dei telefonini 3, permettendo quindi di utilizzare i telefonini con un'altra scheda SIM. In tutto sono 30 indagati. E le varie tecniche utilizzate. Ma in cosa consiste sbloccare un telefonino? Beh, in pratica i telefonini che venivano venduti da 3, diciamo a prezzo scontato, obbligavano poi l'utente ad utilizzare il telefonino solo con la SIM, cioè la schedina di 3, quindi solo con quell'operatore. E questi tizi praticamente con varie tecniche sbloccavano il telefono in modo da poterli utilizzare con altre schede. E adesso ci sono 30 indagati in Italia. Tra l'altro le accuse sono abbastanza anche pesanti, perché si parla di violazioni di codici informatici e... Esattamente, sì. Come se fossero entrati all'interno di un qualsiasi sistema protetto privato di qualche azienda. Anche se di fatto sono poi i cellulari che vengono acquistati, quindi proprietà di chi compra. Sì, anche se in effetti a volte questi cellulari non vengono propriamente acquistati, ma vengono in un certo senso pagato un canone, una sorta di acquisto a rate, e si è per contratto obbligati a tenere lo stesso cellulare con il contratto e pagarlo per 10, 15, 20 euro al mese, poi dipende dal contratto, per un tot di tempo, solitamente 2 anni. Altra news, allora, dal sito Slashdot. Il direttore dell'Information Technology di Cuba, Roberto Del Puerto, ha annunciato che presto il governo cubano passerà molte piattaforme Windows su sistema operativo Linux. Ne ha già 1500 e dovrebbe rimpiazzare poi la maggior parte dei calcolatori pubblici o comunque utilizzati in attività pubbliche. Poi volevamo parlare anche di quello che è successo con il film Star Wars, che è stato un po' un colpo duro per la Major, ma in realtà non è stato neanche questo colpo duro, molti avranno sentito dire. Era già distribuito prima di uscire nelle sale attraverso internet, e tra l'altro con una discreta qualità, perché noi sappiamo di pericolosissimi hacker che hanno visto questo film e qualche scena, abbiamo sentito racconti di appunto persone che sono riuscite a trovarlo su internet, a guardarlo addirittura qualche secondo, e hanno detto che era effettivamente una buona qualità di film. Sì, questo... esatto, c'erano appunto dei siti che distribuivano solo a scopo dimostrativo una decina di secondi di film e la qualità era decisamente ottima, e si intuisce per l'ennesima volta che il film non è stato registrato nelle sale cinematografiche, ma è stato registrato direttamente da qualcuno da una pizza all'interno della Lucas, o comunque da qualcuno molto più vicino alla distribuzione rispetto che alla gente in sala. Ricordiamo che tra l'altro sulla questione della registrazione di... si parla addirittura di Samuel Jackson che l'avrebbe trafugato durante le riprese. il film era distribuito attraverso il protocollo BitTorrent, di cui avevamo parlato appunto parlando dei programmi peer-to-peer. Sempre cose che noi diciamo ma che non abbiamo verificato effettivamente. Naturalmente Marco ne ha una versione con i sottotitoli in russo. Vabbè, comunque quello che volevamo dire in realtà di tutta questa notizia è che nonostante sia stato scaricato da milioni di persone l'intero film, e che milioni di persone abbiano iniziato a guardarselo, queste milioni di persone probabilmente sono anche le stesse che sono andati poi a vederselo al cinema, perché sono rimaste impressionate da questo film, che è veramente ne parlano come veramente un film che merita di essere visto, quantomeno solo per la grandiosità dell'opera. E diciamo effettivamente, diciamo che anche se è stato scaricato da milioni di persone, non ne ha risentito il botteghino, perché nel primo weekend, nel primo giorno, comunque Alessandro, quanto ha guadagnato? Nel primo giorno in Italia ha guadagnato circa 850.000 euro, per cui solo in Italia, e mentre negli Stati Uniti ha incassato 50 milioni di dollari solo nel primo giorno di programmazione e 16 milioni nella programmazione notturna dello stesso giorno, per cui direi che Lucas non ha da lamentarsi. No, anche perché se non ricordo male erano un centinaio di milioni di euro che aveva speso per il film più 80 milioni per la pubblicità e insomma che nel primo giorno se ne è pagato metà. Esatto. E questo insomma va ancora una volta a dimostrare che quando un'opera è di qualità non è certo il peer-to-peer o gli altri modi per scaricare via internet che impediscono agli autori di guadagnarci qualche soldino. Andiamo adesso a parlare di un progetto. Cosa sta dietro questa sigla così criptica come FF? Allora, l'EFF, l'Electronic Frontier Foundation, grazie Zampi che mi sistemi il microfono, è una... sono un gruppo di persone che è molto sensibile per quanto riguarda tutte le varie problematiche di libertà in questa... In questi anni di diffusione capillare e omnipresente dell'elettronica, del digitale soprattutto. Per chiarire la sigla, Electronic Frontier Foundation, quindi Marco, dal tuo inglese spettacolare. La frontiera della libertà elettronica, no, della fondazione. Io direi fondazione. Fondazione della frontiera elettronica, no, non sono preparato sul titolo. Della libertà. No, frontier, Electronic Frontier, vabbè, ok. Vabbè, abbiamo già capito, insomma, di questo. Comunque, questa fondazione. Che cosa fa la FF? La FF è un. Allora, agisce in varie direzioni appunto in questa sua battaglia, partendo da semplice campagne di informazione e di disinformazione nei confronti delle leggi che vengono fatte appunto negli Stati Uniti per quanto riguarda il digitale. Non lo so, basterebbe citare la DMCA, che è una legge americana che obbliga, che vieta di fatto ogni possibile aggiramento di qualsiasi protezione informatica con pene severissime, e che di fatto va a agire nel limitare tremendamente la libertà delle persone di poter utilizzare le cose che comprano e che, non lo so, cito qualche esempio tanto per non essere troppo... Per qualche verso simile alla CIA italiana, anche se è più tecnica, più legata alle tecnologie, insomma. Cosa? La DMCA. Sì, no, c'è un equivalente europeo che è la EUCD. L'EUCD. La CIA è l'equivalente delle major americane per il... Cioè, fondamentalmente come funziona? Le major americane rompono le scatole a quelle del congresso per farsi passare delle leggi in modo da proteggere i propri interessi e a discapito ovviamente degli interessi della popolazione. Nel senso, per esempio, se una persona oggi va in un cinema e registra il film... come si chiama, Guerre Stellari, ad esempio, si rischia non so di quanti migliaia di euro Star Wars si rischia migliaia di euro di multa, rischia il carcere. Sappiamo, in Italia ad esempio c'è il penale per la diffusione di materiale informatico protetto da copyright a scopo di lucro. Esatto, cioè se uno va a rubarlo in un negozio, cioè, non penso che gli succeda assolutamente niente. Cioè, abbiamo una disparità di appunto per quanto riguarda appunto i diritti digitali, tutte le leggi adesso ultimamente vanno a colpire tremendamente forte, appunto limitando la libertà e il buon senso a volte che dovrebbe stare dietro le leggi. Diciamo, l'FF appunto agisce in questa direzione in America, appunto, in varie appunto direzioni, ad esempio fornendo supporto legale a ad esempio a coloro che vengono minacciati da appunto da queste applicazioni della DMCA. Voglio citarne un esempio perché è abbastanza carino. Le cartucce del toner, ad esempio. Cartucce del toner delle stampanti sono dei pezzi di plastica con dentro un po' di roba e dentro riempiti di toner. Toner è una d'inchiostro. D'inchiostro, esatto. Una polvere nera che, vabbè, poi... Che ci macchia le dita quando le cambiamo. Ci macchia le dita e che, sottoposta al calore della stampante laser, va a attaccarsi sul foglio. Il fatto che qualcuno possa decidere di prendere una cartuccia di toner e... riempirla, una cartuccia vuota e riempirla, oppure produrre una cartuccia di toner in concorrenza a quella ad esempio prodotta dall'HP, dava molto fastidio appunto alle ditte produttrici di stampanti, che hanno cominciato a produrre delle cartucce con dentro dei piccoli chip che dicevano se quella cartuccia fosse stata fatta o meno appunto dalla ditta produttrice della stampante, e quindi rifiutandosi di funzionare con quelle prodotte dalla concorrenza. O addirittura questi chip davano comunicazione sul contenuto della cartuccia, quindi potevano dire la cartuccia è vuota, esatto, e la stampante si rifiutava si rifiuta, nel senso che queste cartucce esistono anche adesso. Anche se magari in realtà la cartuccia di toner non è vuota. Non è vuota. Quindi che qualcuno con una siringa ci ha inserito dell'inchiostro. Esatto. No, ma anche senza averle riempite di nuovo, a volte non finiscono quando il chip dice che sono finite, e ad esempio però bisogna cambiarle per forza. E ad esempio la legge, la DMCA americana, è stata impugnata dalla, cito la marca, lasciamo che dalla Lexmark, appunto, che è una produttrice di stampanti, e appunto per dicendo no, prendendo dei produttori che facevano delle cartucce compatibili, dicendo oh, no, voi non potete farle e vi denunciamo. La FF in quel caso ha pagato il supporto legale nella battaglia legale. Nella battaglia legale appunto tra questo produttore di cartucce di ricambio non ovviamente originali, non, diciamo, non era una mega azienda con migliaia e migliaia di milioni e milioni di dollari di fatturato, ma era un'aziendina del cavolo che produceva dei pezzi di plastica che più o meno si infilavano dentro le stampanti, e appunto ha pagato lei supporto legale e sono riusciti a vincere ad esempio questa causa. Questo ha portato al punto al fatto che adesso c'è un precedente negli Stati Uniti che dice che si possono fare queste cose, quindi cambiare i tipi di cartucce. E questo tra l'altro è un vantaggio per tutti i consumatori, perché esatto, molti perché si saranno resi anche conto del fatto che le industrie produttrici di stampanti, più che tanti altri produttori di hardware, vivono più sul consumo dei pezzi di ricambio, quindi le cartucce, che non sulla stampante stessa. E capita spessissimo di trovare in un supermercato o anche in un centro commerciale una stampante che costa quasi meno del prezzo proprio di fabbrica, o comunque addirittura meno del prezzo di fabbrica, e poi si scoprono che le cartucce invece costano il doppio del prezzo della stampante. Questo viene fatto, insomma, in una maniera anche così abbastanza fraudolenta. Beh, esatto, guarda caso l'Exmark è proprio una di quelle che ha la maggiore differenza tra il prezzo della stampante e il prezzo della cartuccia, dove il prezzo della cartuccia è molto molto più alto di quello della stampante. Esatto, alla fine ci vendono delle cartucce con intorno un pezzo di plastica che è la stampante. Esatto. Tra l'altro la Lexmark spesso le vende addirittura senza cartucce incluse nella stampante. Questo. Oh, oddio, questa è peggio ancora. Che cosa fa ancora l'Electronic Frontier Foundation? Ad esempio, invece, supporta altri tipi di... Ad esempio, supporta economicamente dei progetti software che le interessano. Ad esempio, c'è di recente un progetto di anonimizzazione del traffico di rete che si chiama Tor, The Onion Router, va bene, adesso non andiamo nel tecnico. E appunto questo progetto è stato preso dalla Electronic Frontier Foundation, che ha comunque tirato fuori dei soldi per pagare i programmatori per andare avanti con questo software che permette appunto a qualcuno di accedere a internet senza sapere da dove acceda, e rendendo molto difficile appunto il tracciare chi stia guardando quel determinato sito o qualcosa. Cosa che oggi è piuttosto difficile, diciamo. Nel senso, bisogna evitare, essere molto esperti per, esatto, per riuscire a non essere tracciabili. E poi che è veramente facile da usare perché basta installarlo e poi fa tutto veramente da solo, crea una buona garanzia di poter navigare in internet anonimamente. Questo progetto Tor appunto viene supportato economicamente dalla Free Software Foundation e viene anche supportato legalmente, per cui questi della Free Software, della Electronic Frontier Foundation, dicono: se gli insegneremo a dire solo la sigla prima o poi, non vi preoccupate, appunto, dicono: se venite denunciati perché utilizzate Tor e qualcuno dice voi fate delle cose illegali perché state utilizzando Tor, noi vi forniamo l'avvocato che portiamo avanti la causa legale. Lo scopo della EFF è fondamentalmente quello di andare a tirare in tribunale, pagando degli avvocati decenti e cercando di ottenere il precedente che nella legislazione americana è appunto importantissimo per tutte le cause future. E soprattutto anche per le cause all'esterno degli Stati Uniti, perché sappiamo che quando si tratta di leggi riguardanti la tecnologia, gli Stati Uniti dettano legge anche all'esterno, come tante altre cose comunque, dettano legge anche all'esterno dei loro confini. Così è successo con il Clinton Patriot Act, che poi ha avuto una serie di repliche in Europa o nei vari stati più o meno ricalcanti. Basta pensare alle leggi antiterrorismo, antiterrorismo, insomma, tutte queste cose. Su queste cose appunto spesso gli altri stati si adattano a quanto viene fatto negli Stati Uniti, quindi diciamo che l'EFF lavora anche per chi non è statunitense, insomma, quindi lavora anche per noi. Proprio dei bravi guaglioni. Esatto. Altre azioni che intraprendono, ad esempio, sono, non so, il dare i consigli e preparare tutti i documenti legali per coloro che ad esempio vengono denunciati per utilizzo di tecnologie di file sharing. Per cui questi non sopportano legalmente, però comunque gli danno tutta una serie di informazioni su come agire, su che cosa dichiarare, sul fatto di non accettare di pagare subito i qualche centinaia di migliaia di dollari, ma di comunque tentare di portare la questione in tribunale, perché comunque ci sono possibilità di portarla avanti decentemente. Quindi danno un sacco di informazioni anche per coloro che si trovano in cattive acque appunto a causa di situazioni informatiche. Qual è il sito quindi di questa favola del 2005? www.eff.org. Cioè, sulla sinistra si trova subito che cos'è EFF. È un'organizzazione, un gruppo no profit di persone appassionate, legali, tecnici, volontari e visionari che lavorano su un progetto su progetti riguardanti i diritti digitali, comunque i diritti riguardanti la tecnologia. Defending freedom in the digital world. Sì, questo è il sottotitolo. Andiamo a sentire un altro pezzo di Incredible Kno. Si chiama Kno Bass. I plan to take over the world. We'll be right back. Passiamo dunque all'ultima parte di questa trasmissione di oggi. Andiamo a presentare un programma rigorosamente libero, rigorosamente open source, rigorosamente free software, rigorosamente tra l'altro anche gratuito stavolta, e parliamo di un player audio. Parliamo di Zinf, Z-I-N-F, e allora si trova all'indirizzo www.zinf.org. È un player, quindi un software che permette di ascoltare file musicali. Può fare tranquillamente da sostituto per Winamp, ha praticamente lo stesso tipo di interfaccia. È un player molto interessante, primo perché funziona e ha la stessa interfaccia sia sotto Linux che sotto Windows, quindi sempre nell'ottica di diciamo farvi conoscere un po' di software che vi permetterà piano piano di migrare verso Linux, ovvero cominciando ad utilizzare del software che poi potete ritrovare pari pari sotto Linux. Questo è un'ottima scelta, permette sia di suonare i file MP3 come permette la maggior parte dei player, però permette soprattutto di suonare file OGG, Vorbis, che invece molti player non permettono di utilizzare, o perlomeno nelle versioni base, vedi appunto Winamp. Ha tutta un'altra serie di funzioncine, fa andare i CD, permette di riconoscere i brani musicali, quindi di scaricare da internet i titoli e tutto quanto, come fa Winamp, come fa il Media Player. Ovviamente si appoggia su dei siti aperti, in particolar modo MusicBrainz, invece che CDDB, che è quello utilizzato da Winamp. Supporta le playlist, ha un'ottima interfaccia per la media library, quindi controlla tutto il vostro disco, vi fa l'indice dei vostri file musicali, vi permette di ordinarli in base all'autore, al titolo. Mentre invece quella supporto di Winamp, ad esempio, molto spesso incasina non poco le cose. Anche quella del Media Player, anche se è fatta abbastanza bene, quella del Media Player. Mentre quella di M-Player, famoso programma per Linux, vabbè, non parliamo. No, è fatto tutto piuttosto bene, permette di editare le informazioni accessorie dei file musicali, quindi gli ID3, non so se poi qualcuno li usa, però effettivamente è comodo, o comunque permette di scaricarli da internet. Beh, però è una cosa molto carina, che è appunto questa interfaccia che è stata appunto MusicBrainz, che è una roba intelligente, per cui quando abbiamo ad esempio delle MP3 così sfusi, o magari senza nome, senza nulla, questo sistema MusicBrainz prende l'MP3 e riesce più o meno a ricavare delle informazioni che poi va a confrontare con quelle sul sito appunto MusicBrainz, e ci permette automaticamente di mettere il titolo e il nome della traccia alla canzone, senza dover andare a modificare a mano i famosi tag di 3, oppure. E se siamo collegati ad internet, semplicemente nell'ascoltare questi brani, lui prenderà tutte queste informazioni, se le metterà nel posto giusto e ci compariranno sul display di Zinf. E magari anche comodo, per esempio, quando avete masterizzato un CD audio, l'avete messo sul vostro computer, se funziona, io non ho provato effettivamente questa cosa. Funziona, non si fida. E ha anche un multi-interfaccia, quindi permette di cambiare il tema, quindi cambiare i colori, la forma dell'interfaccia, esattamente come Winamp. E supporta anche lo streaming, quindi vi permette di ascoltare anche la radio via web. Supporta sia Shoutcast, Icecast, comunque vabbè, supporta praticamente tutti gli streaming che vengono normalmente utilizzati per streamare appunto le radio e i file musicali. E mi sembra che stiamo ormai giungendo verso la conclusione della nostra puntata di oggi. Facciamo partire anche la sigla, magari, visto che vedo che non riesci a trovare il brano musicale che volevi presentarci. Sì, è un fantastico lettore MP3, ma è scomodissimo da usare. Sigla? Sigla. Sigla. Ed è terminata così anche la 17ª puntata di Cialtroni nello spazio edizione 2005. Il sito, Alessandro, www.circolab.net, cliccate, seguite sul link. Seguite il link sulla destra, mi raccomando, cercate di scrivere. E Marco, ho promesso che la prossima settimana saprà dire di che cosa parla la nostra trasmissione. Sarò più preparato. Mi facciamo preparare la lezione. Ciao a tutti!